Capitolo 14. Impressioni nuove. Alle tre pomeridiane, sulla passeggiata degli inglesi, si vede tutto il bel mondo di Nizza. Il luogo è stupendo. Un largo viale fiancheggiato da fiori, da palme e da altre piante dei tropici, col mare da un lato e dall'altro il grande corso, lungo il quale sorgono gli alberi e le ville, nello sfondo boschetti di aranci e colline. Molte nazioni vi sono rappresentate, molte sono le lingue che vi si parlano, svariati i costumi che si indossano. Nelle giornate di sole è uno spettacolo gaio e brillante, come un carnevale. Inglesi alteri, francesi vivaci, tedeschi seri e impettiti, spagnoli belli, russi brutti, ebrei sommessi, americani liberi e disinvolti, tutti vanno in carrozza, siedono e passeggiano commentando le ultime notizie e discutendo l'ultima personalità arrivata. L'Aristori o Dickens, un sovrano europeo o la regina delle isole Sandwich. Gli equipaggi sono svariati come le persone e attirano l'attenzione non meno di esse, specialmente quelle barouche basse, a cesta, entro le quali le signore guidano i cavalli. Una pariglia di pony, vivaci, avvolti in una elegante reticella perché le ricche code non invadano il minuscolo veicolo, e i piccoli groom, appollaiati nell'alto seggiolino posteriore. Era il giorno di Natale. Lungo la passeggiata camminava lentamente un giovanotto dall'alta statura e dall'espressione distratta, lontana. Aveva il tipo italiano, vestiva all'inglese e mostrava l'aria indipendente di un americano. Combinazione che richiamava al suo passaggio gli sguardi di ammirazione di non pochi occhi femminili. Mentre molti elegantoni in velluto nero, cravatta rosea, guanti color nocciola e fiore d'arancio all'occhiello stringevano le spalle, ma ne invidiavano la bella statura, molti erano i graziosi visetti femminili degni di nota, ma il giovanotto poco ci badava. Solo ogni tanto, se incontrava una figura bionda vestita di azzurro, le dava un'occhiata. Uscì dalla passeggiata e si arrestò un momento a un incrocio, come indeciso se andare a sentire la musica al giardino pubblico o prendere per la spiaggia fino alla collina del castello. Il trotto veloce di una piccola pariglia gli fece levare gli occhi. Una di quelle carrozzelle guidata da una signora sola percorreva veloce la strada. La dama era giovane, bionda e vestiva d'azzurro. Il giovanotto la guardò un momento e il suo volto si rischiarò, agitando in aria il cappello come un ragazzo egli le corse incontro. «Oh, Lori, sei proprio tu! Credevo che non venissi mai!» esclamò Amy, lasciando le redini e stendendogli ambedue le mani con grande scandalo di una mamma francese, che fece affrettare il passo alla figliuola finché non la corrompesse il cattivo esempio di quegli inglesi con l'eccessiva libertà delle loro maniere. «Ho prolungato un poco il viaggio, ma avevo promesso di fare il Natale con te ed eccomi qua. Come sta il nonno? Quando sei arrivato? Dove alloggi?» Lori rispose in ordine. «Benone, iersera, al Chauvin. Sono passato al tuo albergo, ma eravate tutti fuori. Mon Dieu, ho tante cose da dirti e non so da che parte incominciare. Sali qui, così parliamo con comodo. Andavo appunto a fare una trottata e cercavo compagnia. Flo non esce, si risparmia per questa sera. Che c'è, un ballo?» «Oh, c'è una veglia di Natale al nostro albergo. Ci sono tanti americani e solennizzano la festa. Tu ci verrai, eh? Già, si intende, la zia sarà molto contenta.» «Grazie. Dove si va ora?» chiese Lori, drizzandosi e incrociando le braccia, cosa che piaceva molto ad Amy, che preferiva guidare lei i due cavallini bianchi, con le redini azzurre e la piccola frusta. Ci trovava una gran soddisfazione. «Prima vado dal banchiere per la corrispondenza, poi alla collina del castello. C'è una vista così bella e mi diverto tanto a dar da mangiare ai pavoni. Ci sei mai stato?» «Molte volte, anni fa, ma non mi dispiacerà di tornarci. Adesso raccontami di te tutto. Le ultime notizie le ho avute dal tuo nonno quando ti aspettava da Berlino.» «Sì, ci sono stato un mese e poi l'ho raggiunto a Parigi, dove si era stabilito per l'inverno. Là egli ha degli amici e trova modo di divertirsi molto. Io vado e vengo e così tiriamo innanzi magnificamente.» «È un sistema convenientissimo», disse Amy, la quale sentiva che Lori non le diceva qualche cosa, ma non riusciva a immaginare quale. «E già, perché, vedi, a lui non piace viaggiare e a me non piace star fermo. Perciò facciamo ciascuno a modo nostro e così si va sempre d'accordo. Ci vediamo abbastanza spesso. Lui si diverte quando gli racconto i fatti miei e a me fa piacere di sapere che c'è qualcuno che è contento di vedermi quando ritorno dai miei vagabondaggi. Brutto buco, sudicio, decrepito, eh? Domandò a questo punto Lori con una smorfia di disgusto, indicando il Boulevard Principe Napoleone nella città vecchia che in quel momento attraversavano. Lo sporco è pittoresco e perciò io ci passo sopra. Il fiume e la collina sono bellissimi. Certe vedute di queste piccole traverse anguste sono deliziose per me. Adesso bisogna aspettare che passi la processione. Va alla chiesa di San Giovanni. Mentre Lori osservava distratto i preti sotto i baldacchini, le monache velate di bianco con il crocifisso in mano e i fratelli di una confraternita in cappa azzurra che sfilavano cantando, Amy osservava Lori e sentiva come una specie di soggezione, di timido ritegno. Lo trovava assai cambiato, non era più il ragazzo dal volto allegro che aveva lasciato, ora aveva l'aria più pensosa, più adulta, era più bello che mai. Le sembrava molto migliorato, ma adesso che gli si era un po' calmata la gioia dell'incontro con l'amica, pareva un po' stanco e depresso. Malato? No. Infelice? No, nemmeno. Ma certo più uomo e più serio di quanto avrebbero dovuto farlo un anno o due di svaghi. Lei non riusciva a capire e non osava fare domande. Crollò il capo e spinse i due cavallini. La processione girava sugli archi del ponte Paglioni e scompariva nella chiesa. Che pensez-vous? Chiese Amy per far sentire il suo francese, che era migliorato, in qualità se non in quantità, da quando era in Europa. Che mademoiselle ha impiegato bene il tempo e il risultato è delizioso, rispose Lori con un inchino e uno sguardo di ammirazione, portandosi la mano al cuore. Ella arrossì di piacere al complimento, ma non era, dopo tutto, lo stesso piacere che le davano quelli meno galanti che egli le tributava una volta, quando nelle occasioni faceva un giro intorno alla sua persona e le diceva che era tutta una bellezza, con un riso felice e un leggero scappellotto che era una carezza. Il nuovo tono non le piaceva, non era il tono di un uomo smaliziato, ma c'era un po' meno calore, per quanto lo sguardo che lo accompagnava fosse ancora quello. E Amy pensava, se crescendo mi diventa così, preferirei rimanesse ragazzo. Cercò, tuttavia, di simulare con l'allegria e la disinvoltura quel senso alquanto spiacevole di delusione. Da Avigdor trovò le sospirate lettere da casa e allora passò le redini a Lori per leggere comodamente mentre la barouche saliva la strada tortuosa e ombreggiata fra siepi folte dove la rosa tea fioriva come in giugno. Beth va molto male, dice la mamma. Tante volte penso se non sarebbe meglio che io tornassi a casa, ma tutti mi dicono di rimanere e io rimango perché un'altra occasione come questa non l'avrò più, disse Amy guardando con serietà l'amico al di sopra della lettera che stava leggendo. In questo credo che tu abbia ragione. A casa non potresti far nulla e per loro è un gran conforto sapere che ti trovi bene e sei contenta e ti diverti. Nel dire queste parole Lori si fece un po' più vicino e allora somigliava un po' a Lori di una volta. Il peso che in certi momenti gravava sul cuore di Amy si dileguò. L'espressione, l'atteggiamento, il tono delle parole di lui le ridavano la certezza che se fosse capitato qualcosa di grave ella non si sarebbe trovata sola in terra straniera. E ritornò allegra e con molte risate mostrò a Lori una caricatura di Joe che scriveva. Col nastro della cuffia arditamente eretto mentre dalla bocca le uscivano le parole arde la fiamma del genio. Lori, sorridendo, gliela prese di mano e se la mise nel taschino del gilet, perché non la portasse via il vento, e con molto interesse ascoltò la lettera vivace che Amy gli leggeva. Ecco veramente un buon Natale per me, disse Amy. Stamattina i doni, poi il tuo arrivo, adesso le lettere e stasera la veglia. Egli fermò il cavallo fra le rovine del vecchio forte, in mezzo a un magnifico branco di pavoni che accorrevano fiduciosi a prendere il becchime. Ritta sul banco, al di sopra di Lori, Amy, ridendo, si mise a gettare croste di pane ai meravigliosi pennuti. Lori la guardò come lei prima aveva guardato lui, curioso anch'egli di vedere quali cambiamenti avevano recato nell'amica il tempo e la distanza. Nulla trovò di sospetto, non ebbe delusioni. Molto da ammirare invece e da approvare. Eccetto un'ombra di affettazione nel parlare e nei modi, egli la ritrovava graziosa e vivace come una volta, con in più quel non so che nel vestire e nel portamento che si chiama eleganza. Quasi un po' troppo donna per la sua età. Ella aveva acquistato una disinvoltura anche nella conversazione che la faceva apparire grand'ama più di quanto non fosse ancora in realtà. Ogni tanto però faceva capolino l'antica aggressività birichina e si faceva sentire la volontà forte insieme con la naturale franchezza del carattere, non guastata dalla vernice cosmopolita. Non tutte queste cose lesse Lori in Amy nel breve tempo che la guardò gettare il becchime ai pavoni, ma ne vide abbastanza da fargli piacere e da destare il suo interesse. L'immagine che se ne formò fu quella di una fanciulla dal volto animato, ritta nel sole, che faceva risaltare il tono dolce della veste azzurra, il colorito fresco delle gote e lo splendore dei capelli d'oro. Una bella figura centrale in mezzo a un bello scenario. Raggiunsero il ripiano di roccia che corona la collina. Amy, che precedeva, salutò da lungi con la mano l'amico, quasi a fargli gli onori del luogo che l'amava e in cui veniva di frequente. Di lassù gli segnava a dito le cose che nominava. Ti ricordi la cattedrale, il corso, i pescatori che tiravano le reti nella baia e la bella strada che va a Villafranca e la torre Schubert proprio lì sotto? E poi la cosa più importante, quell'ombra lontana all'orizzonte che dicono sia la Corsica? Ricordo, ricordo. Non è mutato poi tanto. Ammise lui senza troppo calore. Cosa pagherebbe Joe per poter vedere quell'ombra laggiù? Domandò Amy. Era piena di entusiasmo e lo avrebbe voluto comunicare a Lori. Sì, egli rispose secco secco. Ma l'isola lontana cercò di vederla con uno sforzo della vista. Il nome di Joe, tiranna ben più grande di Napoleone, gliela rendeva ora interessante. Guardatela bene, per amore di Joe, disse Amy, e poi vienimi a dire che cosa hai fatto in tanto tempo. E Amy si sedé preparandosi a una buona chiacchierata. Ma la chiacchierata non ci fu. Egli la raggiunse e rispose con franchezza a tutte le domande che lei gli faceva, ma ella non seppe altro, se non che era andato in giro per l'Europa, spingendosi fino in Grecia. E dopo un'oretta di conversazione, non molto concludente, ritornarono in città. Ossequiata la signora Carroll, Lori se ne andò promettendo che sarebbe tornato la sera. Quanto ad Amy, va notato che quella sera mise una cura speciale a farsi bella. Il tempo e la separazione avevano prodotto il loro effetto su lei e su Lori, e la vedeva il vecchio amico in una luce nuova. Non più il nostro ragazzo, ma un bel giovanotto, un uomo compito, e sentiva, rendendosene conto, il desiderio naturale di apparirgli in buona luce. Amy sapeva quali erano i propri numeri buoni e ne traeva il massimo partito, con quel buon gusto e quell'abilità che, quando li possiedi, sono la fortuna di una donna povera e bella. Tarlatan e tulle a Nizza costavano poco e Amy in queste occasioni se ne vestiva. Seguendo la moda intelligente dell'Inghilterra, che per le signorine prescrive la semplicità, ella si combinava certe toilette deliziose con fiori naturali, poche guarnizioni e una quantità di belle trovate che costavano poco ed erano di grande effetto. Bisognava ammettere che in lei sovente l'artista prevaleva sulla donna e le consigliava la pettinatura all'antica, le attitudini statuarie, le pieghe classiche, ma bisogna anche compatirla. Tutti abbiamo le nostre piccole debolezze e le dobbiamo perdonare alla gioventù, che ha il grande merito di offrirci uno spettacolo sempre nuovo e di rallegrarci il cuore con le sue piccole, ingenue vanità. Voglio che mi trovi bella e ne parli a casa, pensava Amy mentre indossava l'abito da ballo di Flo, di seta color bianco avorio, e lo completava con una nuvola di fiori freschi. Le spalle candide e i capelli d'oro spiccavano con un effetto assai artistico. Sui capelli ebbe la buona idea di non mettersi nulla. Le ciocche folte e ondulate si raccoglievano in un nodo sulla nuca, come nelle statue di Ebe. Non è di moda, ma mi sta bene. Se mi acconciassi altrimenti sarei un orrore. Ella diceva a chi le consigliava i ricci, i posticci e le trecce che imponeva la moda del giorno. Non possedendo guarnizioni abbastanza belle per questa occasione importante, Amy applicò sulla gonna fluente qualche roseo mazzetto di azalee e incorniciò le bianche spalle di piccole foglie di vite. Ricordandosi di quelle famose calzature dipinte, contemplò con giovanile soddisfazione i suoi scarpini da sera di satin bianco e passeggiò su e giù per la camera ammirandosi il piedino aristocratico. «Il ventaglio nuovo sta proprio bene con questi fiori. Anche i guanti sono intonati. Il mouchoir della zia, in vero pizzo, dà un cachet a tutto l'insieme. Se avessi il naso e la bocca classici sarei davvero felice». Così diceva fra sé, osservandosi con occhio critico e tenendo un candeliere per mano. Malgrado quel benedetto naso, era più gaia e più graziosa del solito. Scivolava con passo lieve, raramente correva perché riteneva non fosse nel suo stile. Alta com'era, un po' di solennità statuaria le andava meglio, dei movimenti vivaci e scattanti. Aspettava Lori, percorrendo innanzi e indietro il lungo salone. Si fermò, in posa, sotto la lumiera, che le metteva un riflesso magnifico nei capelli d'oro. Poi ci ripensò meglio e si recò all'altro estremo del salone, come vergognandosi del giovanile desiderio di far colpo. Il caso volle che fosse l'idea migliore, perché Lori arrivò così cheto che lei non l'udì, e stando presso una finestra lontana, con la testa voltata di tre quarti, e reggendosi la veste con la mano, la sua bianca, snella figura sullo sfondo rosso delle cortine sembrava una statua collocata nella giusta luce. «Buonasera, Diana», disse Lori, indugiandosi a guardarla con un'espressione soddisfatta che le fece assai piacere. «Buonasera, Apollo», ella rispose, rendendogli il sorriso e il complimento. Anche lui era insolitamente sereno. Ella pregustò l'entrata che avrebbe fatto nella sala da ballo al braccio di una figura tanto personale e pensò con molta pietà alle quattro signorine Davis così bruttine, poverette. «Ecco i tuoi fiori. Li ho preparati io, e mi sono ricordato che non ti piacciono le fascine, come le chiama Anna», disse Lori, porgendole un mazzolino fatto con lieve delicatezza dentro un portafiori che Amy da un pezzo ammirava e desiderava, passando ogni giorno dinanzi alla vetrina di cardigan. «Molto gentile», ella esclamò riconoscente. «Se avessi saputo della tua venuta avrei cercato qualche cosa del genere, ma non sarebbe riuscita così graziosa, temo». «Ti ringrazio. Non è come dovrebbe essere, ma portato da te ci guadagna», osservò Lori mentre Amy si applicava al polso il braccialetto d'argento. «Non parlare così, te ne prego. Credevo ti facesse piacere. Non da te, non suona naturale. Preferisco i tuoi modi spicci». «Ne sono contento», egli rispose con un sospiro di sollievo, mentre le abbottonava i guanti e le chiedeva se la sua cravatta era dritta. Tutto come quando andavano insieme a qualche serata al loro paese. Il pubblico che quella sera affollava la lunga sala da pranzo era uno di quelli che non si vedono che sul continente europeo. Gli americani, ospitali, avevano invitato tutte le conoscenze che avevano a Nizza e, non avendo pregiudizi contro le persone titolate, ne avevano messe insieme parecchie per aggiungere lustro al loro ballo di Natale. C'era un principe russo che per un'ora si degnò sedere in un angolo a parlare con una dama poderosa, vestita come la madre di Amleto, in velluto nero, con un alto collare di perle. Un conte polacco, 17enne, si dedicava alle dame, che lo proclamavano un tesoro, un uomo affascinante. Un'altezza serenissima germanica era venuta unicamente per la cena e vagava indeciso cercando cosa divorare. Il segretario privato del barone Rothschild, un ebreo molto nasuto in stivaletti stretti, sorrideva raggiante e benevolo al mondo in generale, come se il nome del suo principale gli creasse d'intorno un'aureola di quel metallo. Un grosso francese, che conosceva l'imperatore, era venuto perché amava follemente ballare. Lady De Jones, una matrona britannica, abbelliva la scena con la sua famigliola di 8 ragazze. Naturalmente abbondavano le americane dal piede leggero e dalla voce stridula e le inglesine belle e languide. E non mancavano alcune signorine francesi, brutte ma interessanti. C'era inoltre la solita compagnia di giovani signori giramondo, che si divertivano allegramente. Le numerose mamme di ogni razza facevano da tappezzeria e sorridevano loro benigne quando danzavano con le rispettive figliuole. Le giovani lettrici possono immaginare lo stato d'animo di Amy quando entrò in scena al braccio di Lori. Sapeva di fare una bella figura. Amava la danza. Il suo piede si sentiva sul suolo natio quando posava sul tappeto di una sala da ballo. La invadeva quel senso delizioso di trionfo che prova una ragazza quando per la prima volta scopre il nuovo regno incantato, in cui ella era chiamata a regnare in virtù della bellezza, della gioventù, della femminilità. Quelle povere signorine Davis, così goffe, così brutte, senza corteggio di cavalieri, senza altra compagnia che un papà arcigno e tre zie, tre zitellone più acide del papà. Passando le salutò con un lieve inchino e con un sorriso amichevole che non era del tutto disinteressato, in quanto fece ammirare meglio il suo vestito e accese in loro una gran curiosità di sapere chi mai poteva essere quell'amico dall'aria così distinta. Al primo accordo della musica, Amy si colorì in volto. Gli occhi le scintillarono, i piedi impazienti cominciarono a battere il tempo, giacché ballava bene e voleva che Lori lo sapesse. Si immagini dunque la sua sorpresa quando il suo cavaliere le chiese con molta calma: «Hai voglia di ballare?» «Beh, quando si viene a un ballo, cos'altro si viene a fare?» gli rispose con un lampo nello sguardo e un'ombra di risentimento nella voce. «Volevo dire il primo ballo, posso avere l'onore?» «Potrò darti questo ballo se cancello il conte.» «Balla divinamente lui, ma mi perdonerà, visto che sei un vecchio amico.» disse Amy per fargli effetto col titolo e per far sentire a lui, Lori, in quale considerazione ella dovesse essere tenuta, ma non ebbe altra soddisfazione che questo commento. Quel polacco? Mica male, ma un po' piccino per sostenere i passi di una dea. La compagnia in mezzo alla quale si trovavano era di inglesi e Amy dovette pasteggiarsi un decoroso cotillon. Ma intanto pensava che gusto sarebbe stato mettersi a danzare la tarantella. Poi Lori la consegnò a quel piccino e andò a fare il suo dovere con Flo, senza assicurarsi altri balli con Amy. Imprudenza che ebbe la sua punizione, perché lei subito si impegnò fino alla cena, decisa a cedere nel solo caso che gli desse prima qualche segno di pentimento. Quando egli se ne venne tranquillamente, senza fretta, a chiederle la prossima danza, una bellissima polca redova, lei con molta calma gli mostrò il carne pieno. Ma le scuse cortesi che egli le fece non la illusero. Quando ella galoppò al braccio del conte, vide Lori sedersi accanto alla zia con un'espressione di vero sollievo. Questo era imperdonabile. Amy non si occupò più di lui per lungo tempo, salvo rivolgergli la parola ogni tanto quando andava dalla zia, che era il suo chaperon, per una spilla o per un momento di riposo. Ma il risentimento di Amy produsse il suo buon effetto, perché ella lo nascose sotto un volto sorridente e si fece vedere serena e brillante. Lo sguardo di Lori la seguiva con piacere, perché la ballava composta, sebbene vivace e graziosa, senza scatenarsi, facendo della danza ciò che deve essere, un piacevole passatempo. Naturalmente cominciò a studiarla sotto questo nuovo punto di vista, e prima che la serata giungesse a metà, egli era convinto che la piccola Amy sarebbe riuscita una dama seducentissima. Il ballo si andò animando sempre più. Uno spirito di socievolezza ben presto si impadronì di tutti. La festività del Natale splendeva in ogni volto, rendeva lieve ogni piede. Chiunque sapeva ballare ballò, e quelli che non sapevano ballare stettero ad ammirare gli altri con insolito piacere. Da tutte le parti si vedeva qualche Davy o qualche Jones che saltellava come una giraffa. Il segretario di Rothschild attraversava la sala come una freccia, con una brillante francesina che allungava sul pavimento come un tappeto il lungo strascico di seta rosea. L'Altezza Serenissima aveva trovato finalmente la tavola per cenare e divorava coscienziosamente tutto quello che c'era nella lista, con disperazione dei camerieri che non si aspettavano un disastro simile. Ma chi si coprì di gloria fu l'amico dell'imperatore, che non perdeva nemmeno una danza, la sapesse ballare o no. Era un vero piacere vedere tanto trasporto infantile in quell'uomo grasso che con tutto il suo peso rimbalzava come una palla di gomma. E correva, volava, faceva la ruota con la testa calva e lucente, le code dell'abito al vento, le scarpe lucide guizzanti nell'aria. Quando la musica taceva, si asciugava la fronte sorridendo all'umanità come un Pickwick francese senza occhiali. Amy e il conte polacco gareggiarono in entusiasmo e in agilità. Lori, controvoglia, si metteva a segnare il tempo, seguendo con lo sguardo gli scarpini bianchi di lei, quando gli passavano davanti, infaticabili, come avessero le ali. Quando il piccolo Vladimiro la lasciò finalmente libera, assicurandole che era veramente desolato di andarsene così presto, lei sentiva proprio il bisogno di riposarsi e di vedere un po' come il cavaliere scortese avesse preso la sua punizione. Gli aveva fatto bene. Alle 3:20 del mattino le affezioni deluse trovano un balsamo nella compagnia degli amici e i giovani nervi fremono, il giovane sangue bolle e gli spiriti giovanili insorgono. Sotto l'incanto della bellezza, della luce, della musica, del movimento. Lori, quando si levò in piedi per offrire la sedia, aveva l'aria ben desta, e quando egli si allontanò premuroso per andarle a prendere qualche cosa per cena, ella disse fra sé, sorridendo soddisfatta: Ah, lo sapevo che gli avrebbe fatto bene. Mi sembri la femme peinte par elle-même di Balzac, disse Lori, facendole vento con una mano e tenendole la tazza del caffè con l'altra. Ma il mio rosso non se ne va, disse Emi, strofinandosi le gote fresche e immacolate con una serietà che lo fece scoppiar dal ridere. Come la chiami questa tu? Egli chiese, toccando un lembo della veste di lei che al soffio del ventaglio premeva contro il suo ginocchio. Illusione. È il nome giusto ed è bella nuova, è vero? È vecchia come il mondo e tu l'hai vista in tante ragazze e non ti sei accorto che è bella fino ad ora. Che stupido! Non l'ho vista mai indosso a te finora. Ecco il perché dell'errore. Capisci? Non far complimenti. In questo momento preferisco il caffè. No, non ti appoggiare, mi dai nervi. Lori si tenne ritto e premurosamente le prese di mano il piatto vuoto. Provava uno strano piacere a sentirsi comandare da lei. E lei non era la piccola Amy timida e sentiva irresistibile la voglia di tiranneggiarlo un po', come fanno le ragazze con tanta grazia quando i signori del creato danno segno di soggezione. Dove l'hai imparato questo? Chiese Lori con uno sguardo imbarazzato. Questo è un'espressione un po' vaga, favorisci spiegarti, rispose Amy. Capiva benissimo, ma per metterlo nell'imbarazzo voleva lei spiegasse una cosa che non si spiega. Ecco, l'aria generale, lo stile. La sicurezza di te è l'illusione, mi capisci? Disse Lori ridendo e arrendendosi. Per trarsi d'impaccio ricorreva alla parola che avevano trovato poco prima. Emi era contenta, ma naturalmente non lo fece vedere e rispose tranquilla. A vivere all'estero uno si affina anche non volendolo. Io studio, oltre a divertirmi. Quanto a questo, poi, disse indicando con un breve gesto misurato il proprio vestito, il tulle è a buon mercato. I fiori non costano niente e io sono avvezza a trarre partito dal poco che ho. Quest'ultima frase si pentì subito di averla detta, temendo che non fosse di buon gusto. Ma a Lori fece ancora più piacere. Provava ammirazione e rispetto per quella pazienza, quel coraggio, quell'abilità che sapevano cavarsela così bene, per quella serenità di spirito che copriva la povertà coi fiori. Emi non comprese il perché del suo sguardo affettuoso e della fretta con la quale gli riempì tutto il carnet col proprio nome, dedicandosi a lei per tutto il resto del ballo. Si divertirono, molto, ma l'impulso che portò a questo lieto mutamento era l'effetto di nuove impressioni reciproche che ambedue producevano e ricevevano, senza rendersene conto.